sua vita per uscirne fuori. Quanto dura la salita per trovare l'amore. Ti troverai a lottare da sola in mezzo a tanti cuori. E quante volte hai pensato che tutto fosse impossibile.